Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Un saluto a voi tutti e benvenuti a Smart City, questa sera quarta puntata dello speciale dedicato alla tecnologia blockchain. E allora, a costo di essere un po' noioso, ricordo di cosa si tratta. Parliamo di una tecnologia informatica peer-to-peer, la stessa alla base del Bitcoin, che permette di risolvere in pratica il problema dello scambio di valore in una economia digitale, che si parli di moneta, di proprietà o di qualunque altra risorsa, senza bisogno di intermediari. Per esempio, abbiamo visto il caso di una blockchain usata da una community energetica per gestire gli scambi di energia rinnovabile e i corrispettivi scambi economici, e questo senza bisogno di un soggetto terzo, tipicamente il distributore elettrico, che si occupi appunto di tenere i conti e farli quadrare. Ma abbiamo anche visto il caso della NotarChain, una blockchain privata che invece il notariato italiano sta costruendo per fornire servizi in prima istanza di protezione della proprietà intellettuale. Allora, questa sera continuiamo a esplorare questo spazio nascente della blockchain con l'aiuto di Chiara Mazzone, che è funzionaria responsabile delle politiche di innovazione digitale della DigiConnect della Commissione Europea, alla quale appunto chiediamo, insomma, di aiutarci a capire la dimensione europea del fenomeno. Buonasera Chiara, benvenuta. Buonasera. Allora Chiara Mazzone, intanto forse possiamo cominciare con qualche proprio esempio. Possiamo andare in Svezia forse per iniziare. Certo, vi porto un po' a spasso per l'Europa. Sì. Se prendiamo la Svezia, è un caso interessante in cui un governo ha deciso di inserire le proprie operazioni immobiliari su blockchain, permettendo quindi ai partecipanti, che essi siano banche, governo, intermediari, acquirenti o venditori, di monitorare quasi in real time lo stato di avanzamento delle transazioni, apportando efficienza al servizio pubblico catastale, ma ugualmente trasparenza al processo di, chiamiamolo, passaggio di proprietà. Vediamo un altro caso, che è quello invece del Lussemburgo. Sì, in Lussemburgo abbiamo osservato lo sviluppo di un'infrastruttura blockchain, quindi composta da nodi, da partecipanti a questa infrastruttura, che è supportata da un consorzio di attori privati, imprese, e da il governo lussemburghese. L'obiettivo di questa infrastruttura è creare un posto di sperimentazione dove poter sostenere, supportare dei servizi pubblici o privati che possono approfittare, usufruire di questa blockchain privata, ritorniamo alla questione sì, che menzionavamo prima, in coerenza, e questa è la vera novità, con la legislazione e il quadro regolamentare europeo, soprattutto per ciò che riguarda il regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che entrerà in vigore nel maggio del 2018. Quindi una blockchain che consente per esempio il diritto all'oblio rispetto al suo contenuto. Completamente. E in corrispondenza giudiziaria giuridica con quello che è il quadro legislativo esistente. Ecco, un aspetto interessante di questo lavoro che si sta facendo in Lussemburgo è che diciamo potrebbe questa blockchain fungere anche un po' da perno per un sistema di verifica, tu parlavi di compliance, di verifica, diciamo, di coerenza per esempio anche di prodotti che importiamo rispetto alle regole che adottiamo in Europa. Ho capito bene? Assolutamente, possiamo prevedere lo sviluppo di servizi su queste infrastrutture, quali la tracciabilità delle supply chains, ossia dei prodotti che mangiamo, dei prodotti che acquistiamo, del cibo che mangiamo, oppure dei medicinali che consumiamo. La lotta alla counterfeiting, la lotta alla contraffazione è estremamente importante. La trasparenza e la tracciabilità della blockchain potrebbe effettivamente garantire dei nuovi metodi di trasparenza e di compliance. Ecco, che riguardano anche per esempio la possibilità che prodotti importati dall'estero abbiano una visibilità rispetto a, per esempio, il rispetto delle norme ambientali, il rispetto delle norme sul lavoro. Questa è una prospettiva molto interessante, perché ne parliamo continuamente in Europa. Completamente, non abbiamo nessun progetto in produzione che è stato ancora sviluppato, ma ci sono molte sperimentazioni in questo campo, soprattutto per assicurare le nozioni di base del fair trade e le nozioni di rispetto ambientale quando parliamo di ecologia o quando ad esempio parliamo di prodotti bio. Ecco, c'è poi proprio un progetto che ha una dimensione nativa invece europea, che guarda verso il tema della salute. Certo, qui faccio forse un po' di pubblicità europea a riguardo. Mm-hmm. Abbiamo finanziato nel programma europeo di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 un progetto che si chiama My Health, My Data, quindi la mia salute e i miei dati, il cui obiettivo è esattamente quello di ridare centralità al paziente e ai suoi dati in un sistema sanitario diffuso in cui partecipano medici, ospedali, con la prospettiva di riutilizzare questi dati e di garantirne il consenso, ad esempio a fini di ricerca o ad esempio in prospettiva di clinical trials che potrebbero essere fatti dalle industrie. Quindi stiamo parlando, se ho capito bene, di creare una blockchain in cui finiscono i dati sanitari, per capirsi, dei cittadini europei un domani, dati che naturalmente sono crittografati, quindi, come dire, se li vede il proprietario, se li vede il medico che è autorizzato, se li vede lo scienziato che è autorizzato per fare ricerche cliniche, ma poi i dati restano naturalmente protetti, però visibili, non so, per esempio in tutta Europa, da chiunque ne abbia bisogno. Finisco all'ospedale, certo, spero di no, di Monaco, e lì li possono vedere i miei dati. Con delle condizioni di privacy, ovviamente, da rispettare per la garanzia dei diritti dei cittadini e della protezione dei loro dati personali, che sono molto sensibili. Dunque Mazzone, gli esempi che ci ha portato sono tutti però di blockchain private, cioè di blockchain che sono gestite da una community chiusa, come la comunità dei notai di cui abbiamo parlato l'altro giorno. E invece il mito di queste blockchain totalmente pubbliche dove va a finire a questo punto? No, ha assolutamente ragione. Per il momento vediamo una proliferazione di blockchain private, ma perché le blockchain pubbliche, quali del Bitcoin e dell'Ethereum, su cui ci si potrebbe appoggiare, no? Cioè uno potrebbe immaginare di appoggiare, esatto, dei servizi là sopra, ma non succede. Perché? Assolutamente, non succede in ragione della scarsa scalabilità, cioè della capacità di gestire tante transazioni al secondo, in mancanza di una privacy consistente e dal punto di vista della protezione dei dati personali, che sono immutabili e che quindi contravviene tipicamente alla regolamentazione sulla gestione dei dati personali con il famoso diritto all'oblio. Certo, cioè una volta che è finita sulla blockchain una roba, oggi non c'è nessuna entità, se questa è una blockchain pubblica, che può dire cancellateli. Questo è uno dei temi. Perfetto, molto chiaro. Senta, complessivamente come si pone l'Unione Europea rispetto a questa innovazione che molti considerano rivoluzionaria? Per esempio in Cina c'è stata una reazione di chiusura rispetto a queste tecnologie. Diciamo che l'Europa vuole evitare di ritrovarsi a vivere in un futuro creato dagli altri, con una dipendenza da infrastrutture che esistono ma che hanno regole del gioco e governance incerte. E oltretutto vogliamo proprio anche promuovere l'ecosistema e l'innovazione nel nostro continente, in Europa. Per questo stiamo facendo una serie di attività, finanziando dei progetti di ricerca in diversi campi, e visto che crediamo nell'impatto in diversi settori di queste nuove tecnologie, invito tutta la comunità di sviluppatori italiani e di innovatori italiani il 14 dicembre a Torino per il lancio del prize, quindi di un concorso per l'utilizzo della blockchain for social good, che permetterà di applicare queste tecnologie in settori che hanno impatto nella nostra società. Grazie Chiara Mazzone. Vi ringrazio.